alta voce. Valentina Carnelutti legge L'ora di tutti di Maria Corti. Settima puntata. Il capitano Zurlo. Quando Ferrante I d'Aragona, re di Napoli, elevò me, Francesco Zurlo del Seggio di Capuana, governatore di Otranto, in nome del suo primogenito Don Alfonso, duca di Calabria, uomo inquieto, bellicoso e odiato in molte parti d'Italia, quando questo avvenne, Ahmed Pascià si bagnava nelle acque del Kubuk e del Sakaria, ignorava il nome di Francesco Zurlo ed era ignorato da Francesco Zurlo, ma c'era, questo è il fatto. Egli, nascendo, portò in germe i dolori che avrebbe dato a me. Ero un uomo secco, ma robusto, sicché se avessi governato Francavilla invece di Otranto, la mia vita sarebbe stata assai più lunga e il re Don Ferrante si sarebbe rammaricato né più né meno se al mio posto fosse morto il governatore di Francavilla. La cosa naturalmente non ha molta importanza nell'intera storia universale dei dolori, ma io non posso al proposito non riflettere sul fatto che la mia nomina ebbe origine dal caso, il che, andando al di là del mio intendimento, ha l'effetto di colpirmi più della mia stessa fine. La cosa avvenne in una bella mattinata di sole in cui la brezza marina invogliava a camminare. Il cielo di Napoli formicolava di uccelli, mentre nelle vie della città non vi era nulla di immobile. Al contrario, tutto risuonava di vita. D'un tratto cavalli trottanti, un accorrere di gente sui portoni. Ecco il re. Don Ferrante, che era devoto come tutti gli aragonesi e non mancava di presentarsi a Dio ogni giorno in qualcuna delle innumerevoli chiese della città, perché il popolo napoletano potesse essere sempre al corrente della sua straordinaria devozione, arrivava in tiro a quattro ad ascoltare la prima messa in Santa Chiara. Vedendolo protendere il busto dalla carrozza e scendere lento, impassibile, sul sacrato della chiesa, dissi a me stesso: ecco, addio passeggiata, adesso ti tocca per forza entrare. Feci un inchino, Sua Maestà accennò con la testa un saluto, abbassò gli occhi, entrò. Per tutta la durata della messa stette immobile, inginocchiato su un cuscino di raso rosso, bisbigliando con le sottili labbra i responsori insieme ai chierici, al prete officiante. Quando alzava gli occhi dal messale e fissava il tabernacolo, nella penombra della chiesa si stagliava il viso pallido di una tenebrosa solennità. Fu allora che fece una scoperta. Non c'era in tutto il regno una faccia che avesse il potere di spandere intorno a sé tanto gelo quanto la faccia del re. Nemmeno quella di un cadavere, la quale avrebbe avuto il vantaggio sulla faccia del re di ricordare la fragilità umana e la debolezza della vita. La faccia di Don Ferrante ricordava qualcosa di simile al fato, con tutto ciò che di agghiacciante comporta tale genere di correlazione. Il prete si scrollò nelle spalle, spalancò le braccia e disse: «Ite missa est», e le richiuse di botto come stesse afferrando un animaletto volante. «Che faccio adesso?» pensai. «Esco alla chetichella e riprendo la passeggiata? Impossibile. Ma che diavolo mi ha fatto venire da queste parti oggi?» I baroni del sedile, che nel frattempo erano stati informati dell'arrivo del re, si trovavano già sulla piazzetta della chiesa, di modo che alla sua uscita fu un inchino generale. Sgranò gli omaggi a nome di tutti Brancaccio, disse che non era assolutamente possibile esprimere con quanto desiderio si attendesse l'arrivo del re, causa di imprevedibile felicità, sicché il nuovo sole che quella mattina era entrato in Santa Chiara accendeva faville nel cuore di ogni fedelissimo suddito, grato che Sua Maestà avesse sacrificato qualche particola di sonno per onorare il sedile della sua presenza. Gli uomini erano piccole cose mortali, ma nel comune degli uomini prendeva sede la virtù immortale del re per sua degnazione, né sarebbe bastata una schiera di parole a spiegare degnamente il fatto e la pubblica letizia. Il re frugava con le dita sotto il mantello vergato e intanto misurava le facce dei baroni, guardandoli come una cosa ben fatta, pienamente appropriata e insieme degna di un segreto disprezzo. Infine invitò i presenti a una battuta di caccia. La passione di Ferrante I per la caccia e per l'allevamento degli animali era famosa. Vi erano cervi e volpi nelle sue riserve, trattati con vitto da principi, tanto che qualche mala lingua andava dicendo: alla morte del re si dorranno più gli animali che gli uomini. Allì a Stroni ci sono cinghiali magnifici, disse il re con la sua voce sottile e fredda, degni del nostro regno, li staneremo. I baroni accennarono un ossequiente sorriso. Il re proseguì: questa volta parteciperà alla battuta anche mio figlio, il cardinale Giovanni, benché, come sapete, egli si diletti più delle cose dell'altro mondo che di questo. Seguì una piccola mossa della mano del re, una mano invero bellissima, affusolata e regale. Zurlo, egli disse, che fate lì in un angolo? I miei rispetti, maestà, risposi. Qualcuno si scostò e mi trovai alla sinistra del re. Lui mi scrutò. Vi si vede di rado a corte, disse. Maestà, sono stato fuori Napoli, nei feudi di Casarano e Bagnolo. Bagnolo. Tacque un momento con quella speciale aria di sognare a freddo che hanno le nature calcolatrici. Poi disse: le vostre terre sono vicine a Otranto. Sì, signore, risposi. Bella perla del nostro regno, Otranto, esclamò. Ottimo porto, risposi. Andai per la caccia alle folaghe anni fa in quella zona, egli disse, al lago della Limini. È vicino a Otranto, è vero? 4 miglia, maestà. La Limini, come chi dicesse centinaia di folaghe in una giornata, egli esclamò. Tornò a fissarmi col viso ridivenuto impassibile. Rodici sono i turchi, lo sapete? Purtroppo, risposi. Si suppone che presto saranno alla Valona. Silenzio. Si voltò, disse freddamente: dov'è la mia carrozza? Mentre qualcuno faceva cenno ai servitori del re di accostare la carrozza, egli mi rivolse un sorriso gelido. La provvidenza oggi vi ha portato davanti a me, Zurlo, per ricordarmi che siete l'uomo più adatto ad essere inviato come mio governatore in quella terra. Rimasi di stucco. Accogliete l'onore poco giocondamente, disse il re con sguardo ironico, ma nel fondo delle sue pupille io in quel momento lessi: sta attento, ego sum dominus. Mi ingannavo, stava pensando alle vecchie offese della nostra casata amica degli Angioini. Sono semplicemente stupito, maestà, risposi. Vi resterà tempo anche per i vostri feudi, soggiunse. Passate al palazzo qualche giorno, faremo due chiacchiere. Videbimus et cogitabimus. Ci scostammo, montò in carrozza, ci salutò con uno sbattere di palpebre accompagnato da un sospiro. Quando le ruote presero a girare rapide, tutto scomparve con fragore dietro lo spigolo del monastero di San Francesco. Fu un colpo rovescio della fortuna che fece così terminare una bella passeggiata in una mattina di sole. Ripresa la via di casa, già mi preparavo a raccontare l'accaduto alla moglie e ai figli, a dare loro la notizia completamente impreveduta. Avevo 3 figli, un maschio e 2 femmine, che in quel tempo erano già adulti. La maggiore, Cosima, era una ragazza a dire il vero tranquilla, di umore costante, la quale, senza alzare mai la voce e dicendo sì a tutti con garbo, riusciva sempre a fare ciò che voleva, sicché mi capitava di paragonarla nella mia mente a uno di quei rivi silenziosi, luccicanti al sole, che si fanno passo passo la via in mezzo a rocce e boschi sino al mare, senza bisogno di strappare alberi, di inondare campagne o di interrompersi a metà dell'operazione per dare luogo a impetuosi torrenti. Nemmeno un cespuglietto muoveva. Vivere era per lei una cosa semplice, ordinata e piacevole. Isabella, invece, la minore, desiderava sempre il contrario di quello che desideravano gli altri, e poiché la volontà altrui non la interessava per niente, produceva con facilità dello sconcerto intorno a sé. Inoltre, ogni tanto, d'un tratto, stabiliva di dedicarsi anima e corpo a una cosa, a maestrare un cane, per esempio. Allora, quando si era riuniti alla tavola, non si poteva parlare d'altro che del suo cane. Lei raccontava con foga i progressi, come la bestia avesse imparato a sollevare a un comando l'orecchio destro e abbassare il sinistro, oppure a sollevare insieme orecchio destro e zampa destra. Pareva che tutta l'anima di Isabella si riversasse su quel cane. Col tempo cambierà, diceva mia moglie a scusarla. Ma perché tanto tempo? mi domandavo. Un'altra particolarità di Isabella consisteva nel fare le cose ad orari sempre diversi dagli altri. Leggere di notte, per esempio, e dormire di giorno. «È perché è una ragazza intelligente», diceva mia moglie. «I giovani intelligenti sono tutti un po' nervosi e fanno le cose secondo un certo estro». Io rispondevo irritato. «L'intelligenza è affatto superflua se non serve nemmeno a riconoscere quali sono le ore che madre natura ha destinato al sonno». «Non si può parlare con te», ribatteva piagnucolosa mia moglie. «Hai una tal mania di ragionare su tutto». «Ma perché, mia cara, ti crucci tanto a sentir ragionare?» Lei mi guardava incupita. «Tu, Francesco, non vuoi bene ai figlioli». Nonostante la logica di mia moglie fosse di tal natura, i figli facevano a lei ogni sorta di confidenze, a me mai. Qualche volta, a dire il vero, Isabella era presa da accessi di tenerezza nei miei riguardi. Veniva nello studio, mi faceva delle carezze, sedendosi magari, lunga com'era, sulle mie ginocchia e disordinandomi tutte le carte dello scrittoio, per la curiosità di guardarle. «Come si sta bene qui?» diceva. Oppure «Come sei curioso, padre mio, così pedante!» E aveva la stessa piega della voce di quando, arruffato il pelo al suo cane, schioccava le labbra dicendo «Che belle gambette storte che hai, caro il mio animaluccio!» Per cui il cagnetto la guardava attraverso i mazzi di pelo pendenti sugli occhi e scodinzolava. Devo confessare che in quei rari momenti ero felice. L'amore paterno è di una specie ineffabile. La onda è causa di segrete pene e letizie. Di mezzo fra le due, per età, stava Giovannello, ma per natura pendeva più verso Isabella che verso Cosima. Lui e altri coetanei si radunavano al vespro nei giardini di casa Capece, all'ombra delle querce, per discutere. Avevano deciso che il mondo andava completamente trasformato e che perciò bisognava ogni giorno discutere un problema. Così si buttavano sui problemi come fossero frutti canditi. La sera, quando tornava a casa tutto eccitato, la vista dei suoi familiari, che non facevano niente per trasformare il mondo, lo irritava profondamente. Qualche volta entrava dritto nel mio studio, diceva «Statemi a sentire, vi prego, devo parlarvi». «Va bene», rispondevo, 10 minuti perché ho da fare». Allora cominciava ad espormi i risultati delle conversazioni in casa Capece, emettendo sentenze tanto sbrigative quanto inesatte su tutte le faccende del mondo. «Voi», intervenivo io a un certo punto, «volete costruire un castel dell'uovo e manco sapete come si costruisce una capanna. Sai cosa devi fare, Giovannello? Occupati dei nostri vigneti o, se preferisci, degli uliveti. Comincia per esempio a imparare come si curano le malattie della vite». Giovannello si faceva tutto rosso in faccia e, saltando in piedi, si metteva a camminare a grandi passi per la stanza. «A voi sapete cosa manca, padre mio? Voi siete molto intelligente. Quando uno parla, voi gli prendete le idee una per una dal discorso, la circoscrivete, vedete se ognuna viene fuori o no dalla precedente e se non viene, denunciate subito lo sbaglio. Ma vi manca una cosa. Vi manca l'interesse per il nuovo. Sei giovane, ragazzo mio». «No, non è una questione di età. È questione di credere che il mondo può rinnovarsi, che migliorerà, che gli uomini troveranno finalmente tutti un po' di bene sulla terra. Io voglio lavorare solo per questo». «Che tu aspiri alla felicità degli uomini ti fa molto onore», rispondevo, «ma che tu non voglia imparare a tenere la contabilità di un uliveto, per esempio, o a guarire le malattie della vite, dato che siamo proprietari di uliveti e vigneti, questo mi sembra del tutto irragionevole». Certe volte, invece, Giovannello passava settimane a dire che Napoli gli era venuta a noia, che voleva cambiare posto, vedere altri costumi, altre popolazioni. «Uno sente che ci sono dei luoghi che lo attendono», diceva. Perciò, quando il re decise di mandarmi governatore a Otranto, Giovannello fu sicurissimo che il posto che lo attendeva era Otranto. Cominciò a passeggiare nervoso per casa e a dire che saltava agli occhi di tutti come io lo trattassi sempre da ragazzo, non mi persuadessi che lui ormai era un uomo e come tale poteva seguirmi a Otranto. Era un parlare eccitato il suo, senza ombra di meditazione. Un giorno gli dissi chiaro e tondo: «No, non ti porto con me». Eravamo in giardino, seduti all'ombra di un'araucaria. Lui accostò alla mia la sua faccia imporporata e triste insieme. «Ma perché, insomma, non mi volete? Perché?» «Giovannello, in quella terra presto potrebbero capitarne di ogni colore. Tu non hai idea dei pericoli del momento». «Quali pericoli?» i turchi, per esempio. Allora lui, alzando in aria un braccio, gridò: «Tanto meglio!» «Permetti un poco», risposi dominando la mia irritazione. «Perché tanto meglio? Di vita ne hai anche tu una sola». Ma mio figlio faceva sempre attenzione solo a quello che diceva lui stesso. «Io vengo con voi», rispose. Pensavo in quel momento che i figli crescono con una rapidità intollerabile. In principio sono degli oggetti da pulire, accarezzare, posare in qualche posto. Poi ad un tratto cominciano ad andare felici per conto loro incontro a delle sciocchezze. E allora è come se tutto quello che il padre e la madre hanno fatto per loro fosse uno spreco e il passato un insieme di atti vacui ed inutili. Il mio cuore di cinquantenne rotolò sul pendio di questi pensieri e tenacemente si chiuse. Sicché, quando Giovannello prese a insistere, «Io vengo con voi, io voglio venire con voi», risposi alla fine: «E va bene, se vuoi venire, vieni». È doveroso riconoscere che nelle grandi decisioni non si è mai proprio del tutto presenti. Solo una parte di noi si muove a prenderle e non è sempre il cervello. «Allora mi lasciate venire?» domandò come se non fosse ancora sicuro o forse per il piacere di sentirselo dire di nuovo. «Sì, benché io resti dentro di me contrario. A una condizione però. Se in terra d'Otranto compaiono i turchi, tu riparti immediatamente per Napoli». «I turchi!» ripeté estatico Giovannello. Iniziamo il lungo viaggio in carrozza. Era giugno, il che ci dava il vantaggio di molte ore di luce, anche se si dovevano continuamente strizzare gli occhi e battere le palpebre davanti al gran sole o alla calce immacolata delle masserie. Quando sparirono le colline e le groppe ondulate dei monti, quando i villaggi cominciarono a bruciare sotto il sole della pianura sconfinata, era la Puglia. Terra rossa, uliveti dalle foglie peste, raggrinzite, coperte di polvere bianca, lunghe pietraie fatte da Dio appositamente per le cicale, i grilli, le grillotalpe, che vi stessero immobili al sole con le zampette aperte fino a stordire di gridi la campagna. Al tramonto pareva ci fosse una lotta per qualche mezz'ora fra l'ultimo canto delle cicale e il silenzio. Simile lotta proseguiva più tardi fra la pace dell'estremo tramonto e il cuore dei contadini, da cui si levavano nell'aria nenie di una tristezza senza limite. Essi avanzavano per le strade campestri in piedi sugli sciarabà, grandi carri cinti nei due lati da alte assi di legno, condotti avanti con cigolii, scosse e tramenio di legname. Ogni tanto i contadini si interrompevano per gridare «Ihu!» e frustare i muli assonnati, che allora scrollavano il capo facendo suonare i pendagli. «Buon vespro, signoria!» dicevano quando la nostra carrozza li raggiungeva. Ci guardavano, uno stanco sorriso si accendeva sulle loro facce, lottando con qualcosa di pensieroso e di duro. I muli protendevano il muso verso di noi, poi ripiombavano nella sonnolenta andatura. All'alba si ricominciavano a vedere le stesse cose: terra rossa, uliveti, qualche vigneto, pietraie. Sembrava di rifare la strada del giorno prima. Giovannello taceva, intontito dalla luce e dall'afa. Si videro correre davanti agli occhi dei muretti a secco che facevano da confine fra le proprietà. Al grigio degli ulivi si alternava nelle vicinanze delle masserie il verde stanco dei fichi d'India, piante perennemente immobili. Le masserie, tutte bianche di calce, si sarebbero dette deserte se non fosse stato per qualche grappolo di peperoni appeso sulla porta a seccare o per qualche cane che usciva dal cortile a guardare la carrozza, incerto se abbaiare o no. «Giuseppe!» io gridai al cocchiere. «Non è tempo che compaia la Rocca di Trani?» «Fra due ore, Don Francè!» lui rispose, e da capo tutti tacemmo. Giovannello, seduto di fianco a me, continuava a guardare Giuseppe come se volesse capire, guardandolo, qualcosa. «Tu, Giuseppe!» disse a un tratto. «Hai sempre fatto il cocchiere?» «Signori, avevo 11 anni quando la buon'anima di vostro nonno mi fece guidare per la prima volta un carro di fieno in campagna. Sono 50 anni che porto cavalli». «E t'è sempre piaciuto?» «E come no, signori? I cavalli sono bestie intelligenti e capiscono subito quello che vuoi da loro. Quando mi alzo al mattino sono 4:00 e c'è appena un po' di chiaro in fondo al cielo. Subito vado nella stalla. I cavalli, come mi sentono entrare, voltano la testa a guardarmi e mi stanno a fissare per qualche minuto, muovendo il collo in su e in giù. Da quell'occhiata mi viene nel sangue un piacere piccolo, si capisce, come un grano di pepe, ma un piacere, sempre una bella cosa. Io vi dico, signori, che con la volontà di Dio mi è capitata la migliore vita che mi potesse capitare. Sembrò che Giovannello volesse rispondere, già avesse le parole pronte. Invece volse gli occhi in alto, verso l'azzurro del cielo, e restò a lungo pensieroso. A Otranto le case erano tutte simili, salvo i pochi palazzi signorili, bianche di calce, minuscole, costruite l'una addosso all'altra perché si proteggessero a vicenda dalle bufere marine, incoronate nella stagione estiva di zucche gialle che trionfavano in cima ai muri sotto un frullare di moscerini e di zanzare. Gli uomini erano bruni, invasi di muscoli, dal viso ossuto, e parlavano poco. Da un certo punto di vista erano identici, come dire che, se cercavo di prendere contatti, compariva in tutti un'altra persona che mi guardava con occhi diffidenti. In effetti sapevano che la presenza di un governatore e castellano di Otranto, forestiero, risaliva molto prima della mia venuta, a molto prima dell'epoca della loro nascita. Era di quelle cose che esistono, come le piogge di ottobre, con cui non si sta a chiacchierare dei casi propri. Si accontentavano, incontrandomi, di farsi da parte, togliere la berretta e chinare il capo. I ragazzini, mezzo nudi e mezzo coperti di stracci, appena mi vedevano si mettevano a scappare per fermarsi a una certa distanza, addossati a un muro e fissarmi senza battere ciglio. Avevano gli occhioni aperti e pieni di meraviglia, trattenevano il fiato. Se facevo loro un cenno di saluto con la mano, immediatamente si incupivano e riprendevano a correre fino a scomparire. Anche le donne erano magre, a differenza di quelle dell'interno, vestite per lo più di nero, con occhi vellutati e labbra molli. Qualcuna era bellissima, come quella Idrusa, per esempio, che tolse il senno con la sua bellezza a Don Felice a Ierbo d'Aragona e poteva benissimo finire in una tela se i pittori non avessero la deplorevole abitudine di intenerirsi per le dame coperte di broccatelli. Osservavo spesso i pescatori otrantini e le loro donne al lavoro dalla terrazza del castello. Era chiaro che essi avevano un capo, Mastro Natale, al quale mi accostai un giorno sul molo per fare due chiacchiere. «Come va la vita?» domandai avvicinandomi alla sua barca. Si tolse la berretta. «Buongiorno, signoria. Non c'è male, a Dio piacendo». Un nuvolo di ragazzini giocava correndo attorno alle barche, ma subito al vedermi si fermarono con gli occhi spalancati. «Quanti piccini ci sono a Otranto?» io dissi. Mastro Natale ebbe un lento sorriso. Rispose: «Le nostre donne procreano anche quando sono in età. Magre e sfinite, ma i figli li sanno fare sempre». In quella alcuni pescatori si accostarono, creando un cerchio intorno a me e a Mastro Natale. «Se avete bisogno di qualche cosa», dissi, «se qualche cosa non va, fatemelo sapere». Mi guardarono zitti, sospettosi. «Il nostro desiderio», disse per tutti Mastro Natale, «è solo che il mare ci dia tanti pesci e poche bufere». «Va bene, ad ogni modo sappiate che io sono qui per le vostre necessità. Se avete bisogno potete venire al castello». «Noi ringraziamo, signoria», disse Mastro Natale, mentre gli altri sembravano pensare a testa china. Ma di pescatori otrantini al castello non ne vidi mai uno. Valentina Carnelutti ha letto L'ora di tutti di Maria Corti, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Chiara Valerio e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.